Un ritorno alla situazione precedente è in realtà molto difficile. Dove sono andati a finire i grandi compromessi sociali del passato? Forse oggi qualcuno vede ancora scioperi generali che durano più di un giorno, quando ancora se ne fanno? Chi può credere alla reale efficacia di queste azioni sindacali a carattere nazionale, manifestazioni, giornate di lotta, scioperi? Esse sono quasi scomparse, a vantaggio di conflitti locali parcellizzati in cui ognuno cerca di conservare, come può e spesso nelle peggiori condizioni possibili, il proprio posto di lavoro. E quando quest'ultimo è perduto, la sola rivendicazione che resta ai salariati è quella di contrattare una buona uscita. La finanza globale, attraverso il potente oligopolio bancario, si è impadronita delle imprese e ha contribuito a distruggere progressivamente ogni forma efficace di contropotere, in particolare quello rappresentato dalla contrattazione collettiva. Meglio.